chiederò di scusarci se un certo momento entreranno altre 150 persone, sono alcuni degli iscritti del Circolo dei Lettori di Torino che sono venuti in auto sul Corriere da Torino questa mattina e sono stati bloccati non dalla nube vulcanica, e questo almeno non ha per il momento intracciato il traffico automobilistico, ma comunque sono rimasti bloccati e stanno per arrivare, per arriveranno in pochi minuti. Abbiamo, come vi ho detto oggi, due ospiti d'eccezione. In primo luogo vi voglio presentare la professoressa Anne-Marie Thiès. Anne-Marie Thiès è direttrice de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique et à l'École Normale Supérieure, che è il centro assoluto della vita intellettuale e accademica francese a Parigi, è una specialista di storia culturale, autrice di molti libri, tra i quali il più importante è stato tradotto in italiano, lo troverete dal Mulino, e si chiama La creazione dell'identità nazionale in Europa, XVIII-XX secolo. Collage fra inglesi, spogliarti, e naturalmente la Spagna non è la Spagna, la Spagna è l'Espagna. E così infatti fu per molto tempo chiamata. Quindi quando nasce lo Stato nazionale, il problema non è quello di restaurare una unità preesistente. No, quell'unità preesistente non esiste. Lo Stato deve crearla, e naturalmente per crearla occorre dare la sensazione che si ritorna a qualche cosa di preesistente, perché soltanto il ritorno, la restaurazione è concepita come avvenimento possibile, realizzabile. Naturalmente chi dà una maggiore mano, un maggiore contributo, una maggiore collaborazione a questa operazione di falsa restaurazione sono i poeti, gli intellettuali, i romanzieri, per molti aspetti molto scotti in Inghilterra, ma anche in Italia si possono contare molti scrittori, romanzieri e poeti che hanno in qualche modo contribuito a dare la sensazione che la creazione dello Stato nazionale era un ritorno a un passato valoroso. La Lega Lombarda è un romanzo incompiuto di Massimo D'Azeglio, per esempio, oppure la Delche di Manzoni, il mito dei Longobardi nella costruzione dell'unità italiana, le opere di Cesare Cantù, le opere di Francesco Domenico Guerrazzi, tutte tendono a creare, a dare all'opinione pubblica della penisola il sentimento della restaurazione, persino il culto di Dante. Dante non avrebbe bisogno di un culto particolare politico-nazionalistico, è un grande poeta, tale è sempre stato considerato, ma anche il culto di Dante nell'Italia dell'Ottocento assume un significato politico, perché Dante è l'inventore della lingua, vale a dire del maggiore fattore unificante della penisola italiana. E nella realtà naturalmente la situazione è molto diversa. L'Italia anzitutto è divisa, prima di tutto divisa geograficamente da una catena di montagne che la percorre da nord-ovest a sud-est e che divide nettamente le regioni della penisola, con caratteristiche linguistiche, culturali, gastronomiche completamente diverse. Poi non è un paese interamente mediterraneo, lo è la sua costa occidentale, senza dubbio, ma la costa orientale è una costa adriatica, e l'Adriatico sempre, ma soprattutto dopo il declino della Repubblica di Venezia, è diventato anche in gran parte un mare interno della penisola danubiano-balcanica, comunica con il Mediterraneo naturalmente, ma è un mare interno della penisola danubiano-balcanica. La presenza ungherese, austriaca è certamente evidente. Poi l'Italia non è unita linguisticamente. Non è vero che l'Italia parla italiano nel momento della sua unità. Walter De Mauro, un grande storico della lingua, ci ha spiegato che gli italiani che parlavano italiano, i peninsulari che parlavano italiano, a questo punto come vorrebbe dire, erano probabilmente fra l'8 e il 10%. Il resto della popolazione parlava non soltanto i classici dialetti entro i quali noi abbiamo in qualche modo ripartito il patrimonio, il capitale linguistico italiano, ma in realtà la tavolozza dei dialetti italiani è infinitamente più sfumata, con variazioni dello stesso dialetto a distanza di pochi chilometri da un paese all'altro. E naturalmente con un dialetto alto e un dialetto basso, il dialetto parlato dalla buona borghesia o dall'aristocrazia è una cosa, il dialetto parlato dal popolo, dalla plebe, come si sarebbe detto, è un'altra. Poi l'Italia è divisa religiosamente. Sì, certo, tutti sono cattolici e tutti sono battezzati, con piccolissime minoranze, i valdesi e gli ebrei. Ma in realtà l'Italia è divisa religiosamente perché le regioni del nord, e in particolare la Lombardia, hanno preso sul serio la controriforma. L'hanno fatta e l'hanno presa sul serio, grazie a San Carlo Borromeo, ma non soltanto a lui. La controriforma nell'Italia settentrionale c'è stata, nell'Italia centro-meridionale no, non c'è mai stata la controriforma. Il cattolicesimo dell'Italia meridionale continua ad essere un cattolicesimo paganeggiante, molto teatrale, dove la fede va in scena nelle piazze, nelle strade, nelle chiese, come uno spettacolo corale, vale a dire con quello che un controriformato considererebbe una mancanza di rigore. E poi c'è un altro aspetto che rende l'Italia particolarmente divisa. Negli altri stati europei, nei grandi stati europei, parlo naturalmente della Gran Bretagna, del Regno Unito, si sarebbe detto a partire dal Settecento, della Spagna e della Francia, sì, le differenze etnico-religiose certamente esistevano, e c'era un dato unitario molto importante che era la fedeltà alla dinastia. Le dinastie si erano imposte e avevano creato un rapporto dinastico, un rapporto di lealtà dinastica, che era in qualche modo il fattore unificante. Quando Francesco Giuseppe andava in giro per il suo impero, diceva: come stanno i miei trentini, come stanno i miei ebrei, come stanno i miei polacchi, e questo naturalmente perché lui era il punto di riferimento di tutte queste popolazioni. Ma in Italia questo non era vero, e l'Italia aveva tante lealtà quanti erano i piccoli sovrani che vi regnavano, e soprattutto aveva una particolare lealtà verso un sovrano regnante che era al tempo stesso il capo di una chiesa, vale a dire il Papa. In alcune parti d'Italia la cittadinanza era una cittadinanza papale, l'identità civica era un'identità papale. Naturalmente questo non significa che l'Italia fosse completamente priva di qualsiasi caratteristica unitaria, no? Per carità, sarebbe stata troppo grande la menzogna. L'Italia ha anzitutto, sembra banale ma è anche importante, una straordinaria riconoscibilità geografica, una visibilità geografica che è più forte di quasi tutti gli altri paesi europei, con l'eccezione naturalmente di un'altra grande isola, di una grande isola, vale a dire della Gran Bretagna. È lo stivale naturalmente che suscita in chi lo vede su una carta geografica una percezione, per così dire, unitaria. Inoltre, mentre i suoi abitanti hanno parlato prevalentemente dialetti locali e soltanto una minoranza ha parlato l'italiano, i suoi intellettuali, i suoi scrittori, i suoi poeti hanno usato prevalentemente l'italiano, non esclusivamente, ma prevalentemente l'italiano. E l'italiano è certamente una lingua di grande bellezza, ma il fatto di essere stata parlata soltanto da intellettuali e il fatto di essere stata parlata così poco dalla popolazione della penisola in quanto tale ha enormemente influito in modo negativo sullo sviluppo e sull'evoluzione della lingua italiana, perché è poco alimentata dal basso. Mentre tutte le lingue sono alimentate dal basso, l'italiano non è stato alimentato dal basso, con il risultato che noi siamo arrivati all'Ottocento con una lingua che ha uno straordinario, quanto più si avanza nel tempo, uno straordinario tasso di artificialità, che ha proprio il suo punto più elevato naturalmente in quella fantalingua che è la lingua dei greci d'opera, che non serve assolutamente alla comunicazione, ma soltanto alla trasmissione della musica. Ma ripeto, la lingua è pur sempre un dato unitario. C'è poi un altro dato unitario, più fragile, più discutibile, che è la memoria tramandata da una generazione all'altra, in modo naturalmente sempre imperfetto, dell'Italia come provincia cuore dell'Impero Romano. La provincia italica è il cuore dell'Impero Romano, e questo naturalmente conferisce a chi ne parla un aspetto unitario. Quindi quando viene creato uno Stato unitario non si può restaurare per nulla, bisogna cominciare da zero e bisogna trasformare il mito in realtà, vale a dire bisogna crearlo questo Stato unitario. Esiste una prima difficoltà che si dimostrerà con il passaggio del tempo Insomma, l'impresa di Garibaldi e soprattutto il crollo totalmente imprevisto dello Stato borbonico. Nessuno immaginava che lo Stato borbonico potesse crollare così rapidamente e in modo così catastrofico, per così dire. Il crollo imprevisto dello Stato borbonico hanno regalato al governo di Torino un bocone molto più grande di quello che il governo di Torino era pronto a digerire. Naturalmente l'opportunismo e il conformismo delle classi dirigenti preunitarie offusca questo problema, lo oscura questo problema, perché corrono tutte nel carro dei vincitori, magistrati, diplomatici, generali, e tutti in qualche modo cercano di farsi assumere dal nuovo padrone di casa, e allora questo finisce per oscurare agli inizi il dato dell'esistenza di una parte della penisola che non era nemmeno addirittura nei progetti di Naturalmente questo ha immediatamente delle ripercussioni sul modo in cui questo Stato deve essere amministrato. Sappiamo che un liberale italiano, Minghetti, ministro degli interni nel 1861, liberale di formazione inglese, anche se a suo tempo uomo politico dello Stato pontificio, sappiamo che aveva immaginato uno Stato fondato sulle autonomie locali e soprattutto sulle autonomie comunali, che tra l'altro corrispondeva perfettamente alla storia del paese, che era una storia di comuni e di città-stato. Ma quel progetto venne immediatamente accantonato. E venne immediatamente accantonato perché ci si accorse che le autonomie comunali avrebbero in realtà aggiunto un'ulteriore difficoltà alla creazione di questo Stato unitario. Era scoppiata la guerra del brigantaggio, la cosiddetta guerra del brigantaggio. Questo Stato o si governava dal centro con grande autorità o non si sarebbe governato per nulla. E naturalmente il modello più autorevole in quel momento era il modello prefettizio francese ed è quello il modello che in Savoia, che del resto già lo avevano importato per il loro regno, fu quello il modello che venne immediatamente adottato. Guerra del brigantaggio. La guerra del brigantaggio fu naturalmente una guerra di una genere di plebe per tutti aspetti, a cui si deve poi un significato più politico di quanto non avesse probabilmente agli inizi. Ma vi furono anche fra quelli che combatterono dei legittimisti che erano venuti dalla Spagna e dalla Francia, vi fu il sostegno che Re Borbone dette da Palazzo Farnese a Roma, dove si erano già esule. Sostegno che il Papa dette alla rivolta del Sud, insomma quella guerra alla fine assomigliò, se non concretamente, a una guerra di secessione. E poco male, perché gli Stati quando nascono subiscono quasi sempre nel corso della prima o seconda generazione contro problemi di questo genere. La guerra di secessione americana ne è un esempio, ma la guerra di secessione americana scoppia 80 anni dopo. Quasi 80 anni dopo la nascita dello Stato, la guerra di secessione italiana scoppia nel momento stesso che lo Stato crea, e naturalmente dà luogo a una repressione che è stata indubbiamente in alcune circostanze molto crudele. Comunque, il Papa di dicembre appoggia i rivoltosi dell'Italia meridionale. Papa continua a conservare una parte importante della realtà italiana. Quindi è soprattutto difficile costruire uno Stato unitario quando una parte del paese ha una sua realtà in qualche modo indirizzata verso un altro sovrano. E poi naturalmente ci sono altri incidenti di percorso molto gravi, le sconfitte di Custoza e di Lissa, che hanno offuscato l'immagine dello Stato appena concepito. Hanno contribuito a diffondere la convinzione che l'Italia fosse frutto della diplomazia più che della volontà dei suoi abitanti. Beh, devo dire che tutto sommato l'unitario, vale a dire il creatore dello Stato unitario, quelli che lo hanno costruito anno dopo anno, sono stati bravi. Se non altro, fra pochi mesi, quando il generale si è fatto qualche siano le discussioni complicata se la guerra non va bene e non viene vinta, anche se dobbiamo constatare che nel caso della Francia la guerra del Portogallo, la guerra del 1870, è stata per certi aspetti invece unificata, perché la Francia si è in qualche modo riconosciuta unita nello sforzo di desiderio di cancellare quella pagina, quella brutta pagina della storia francese, e bisogna dire che lo ha fatto progressivamente con la forma di Gambetta, forse di lui bisognerebbe chiamarlo con il nome di Gambetta, pensarci sempre, non parlarne mai. E così alla fine. Perché noi di guerre ne abbiamo fatto parecchie, dopo l'altro. Abbiamo un'Italia minima, naturalmente, dal 1866, penso soprattutto alla guerra d'Africa, conclusa con il disastro di Acqua, la guerra di Libia, la grande guerra. In quale misura queste guerre sono riuscite a fare in tempo, a unificare l'Italia? Beh, hanno certamente contribuito a creare un sentimento nazionale, non fosse che per il fatto che la Costituzione obbligatoria, la Costituzione era obbligatoria, del resto in altri paesi europei, in qualche modo mescolava, ha creato il calderone italiano nel tempo italiano. Però queste guerre hanno anche diviso il paese. La prima guerra mondiale, per esempio, si è conclusa con una vittoria, perché però gli italiani hanno, alcuni italiani hanno immediatamente definito mutilata, dimezzata, insoddisfacente. E comunque noi sappiamo che quella guerra ha provocato in Italia fenomeni simili a quelli che aveva provocato, a quelli che aveva provocato la sconfitta dei paesi sconfitti. Paradossalmente l'Italia è il solo paese vincitore che si è comportata come un paese sconfitto, cioè che ha avuto con altri rivoluzionari tipici di un paese sconfitto, penso all'Austria, alla Romania, alla Germania, eccetera. Ebbene, da noi è successo esattamente questo. E direi che Biennio Rosso del 1919-1921 è in realtà una guerra civile a bassa intensità. Allora, se voi calcolate che anche la guerra del brigantaggio, per certi aspetti, come tutte le guerre di secessione, può anche essere definita guerra civile, e constatate che a qualche decennio di distanza di un'altra guerra civile, seppure a bassa intensità, cominciate a chiedervi se non ci sia un problema nazionale che in qualche modo non abbiamo ancora risolto. Sta di fatto che noi di guerre civili ne abbiamo avuto altre due, quella del 1943 e 1945, che fu veramente una guerra civile, e un'altra guerra civile, vogliamo chiamarla a bassa intensità, per certi aspetti il terrorismo. Non è vero che i terroristi fossero sempre privi di un certo consenso popolare, in alcuni momenti lo hanno. E quindi quattro guerre civili in poco più di un secolo sono un fenomeno molto importante. Devo dire che a questo punto forse non bisognerebbe dimenticare che noi siamo adesso creati ad un fenomeno di secessionismo latente. Perché se quattro regioni italiane non sono interamente controllate dallo Stato, ma sono controllate in condominio, per così dire, con la criminalità organizzata, beh, questa è la forma di secessione virtuale, secessione latente. Io credo che tutto quello che è accaduto in Italia, che adesso entro nella faccio un'invasione di campo io penso che quello che è accaduto in Italia, il modo con cui noi siamo riusciti o non siamo riusciti a costruire uno Stato in Italia, possa essere capito meglio se facciamo riferimento a due episodi interessanti della storia francese esattamente nello stesso tempo. La Francia esisteva da secoli, ma non dimentichiamo che nel 1860-61 anche la Francia ha tratto beneficio dalla unificazione italiana annettendo due province che appartenevano al Regno di Sardegna, la Savoia e l'Inzano. Per la Savoia il problema tutto sommato enormemente facilitato dalla comunanza della lingua. La Savoia parlava francese. Casomai la Savoia il problema era la Francia aveva uno Stato da secoli e questo Stato era andato progressivamente affermando l'autorità del potere centrale. Thank you.